Il punto di Stefano Folli. Matteo Renzi non ama le larghe intese, cioè il governo con il centrodestra, e non ne fa mistero. In cuor suo avrà gioito per la frattura verticale di ieri fra PD e PDL conseguente all'elezione di Rosy Bindi al vertice della commissione antimafia. Ma Renzi sa che le sue fortune sono legate a un sistema elettorale maggioritario che gli permetta da leader del PD di vincere con chiarezza le prossime elezioni. Ebbene, nel suo partito, quello di cui fra breve egli sarà il segretario, c'è chi rema contro questa ipotesi maggioritaria. Ma chi lo dice? Lo dice lui stesso, Renzi. Ecco allora la prima battaglia in cui il sindaco leader dovrà impegnarsi, quella contro una parte consistente del suo stesso PD. Se la vince avrà poi la strada spianata, ma è sempre un azzardo porsi alla guida di un partito vedendo in esso soprattutto un ostacolo da superare con un rapporto diretto con l'opinione pubblica. Si capisce da questo quanto sarà in salita la strada del sindaco.